Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Subito la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri sull'home page del Sole 24 Ore. Allora, oggi parliamo di un tema molto caldo, molto attuale, che può sembrare secondario, ma che così non è, perché è in gioco la concorrenza e anche la liberalizzazione di taluni servizi. Per introdurre questo argomento ci rifacciamo ad un frame di un servizio televisivo. Ci sono categorie che, altro che competitore estero, non accettano neppure la concorrenza che arriva da fuori provincia. È il caso del tassista che, complice il decreto mille proroghe, cerca di proteggersi dal noleggiatore. Le NCC fanno concorrenza ai tassì, certo, perché andiamo a Civitavecchia, andiamo a tutti i posti come i tassì. Loro non vogliono perché, avendo tutto questo flusso, queste macchine NCC di fuori Roma, i tassì hanno meno lavoro. Questi che fanno? Si fanno rilasciare la licenza da quel comune e vengono a lavorare regolarmente a Roma. Pattuiscono le corse, abbassano i prezzi. Una categoria è più protetta delle altre? Forse sì, perché forse i tassinari saranno più protetti. Qui stiamo parlando di fenomeni che vengono da Catania, che vengono da Como, che vengono da Lecce. Però anche il noleggiatore di Roma, se prende un turista a Roma e lo porta al Colosseo, poi che deve fare? Tornare al garage? E questa è la legge. E poi ritornare al Colosseo? Questa è la legge. Io ho portato dei clienti a San Pietro e sto aspettando che escono. Adesso io posso rimanere qui, ma con la nuova legge non so se io devo stare ancora qua o devo andare in rimessa, aspettare, perché adesso cambierà tutto. Quindi lei adesso ha portato i clienti? Ho portato i clienti, aspetto che tornano praticamente e sto aspettando qui. Allora, quello che avete sentito era appunto uno spezzone di un servizio filmato giornalistico mandato in onda martedì sera, l'altro ieri, nel corso di Ballarò del collega Floris. Si sono alternate le voci dei tassisti, avete sentito l'accento spiccatamente romano di quelli che noi romani chiamiamo tassinari, e le voci dei conducenti invece degli autonoleggio con conducente, cosiddetti NCC, che qualcosa da dire gli uni contro gli altri, in realtà dobbiamo ammetterlo, ce l'hanno. Ed è per fare chiarezza su alcuni punti, perché ci troviamo di fronte a novità introdotte con il cosiddetto decreto legge mille proroghe, noi abbiamo chiamato a parlare con noi Francesco Artusa, che è il presidente di Anitrav Lombardia. Che cos'è Anitrav? È un'associazione che riunisce questi conducenti di autonoleggio. Artusa ci ha mandato alcuni giorni fa una bella e lunghissima lettera nella quale denunciava gli imminenti abusi che la categoria che lui rappresenta avrebbe di lì a poco subito. Buongiorno Artusa. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora Artusa, ha sentito insomma anche in questo servizio televisivo che i tassisti insomma non vanno molto, non sono molto teneri nei vostri confronti e dicono: noi faremo anche degli abusi magari, questo lo dico io, però di fatto chi ha una licenza di autonoleggio lasciato dalla città X poi imperversa nelle nostre città, togliendoci lavoro, facendo tariffe scontate, insomma concorrenza sleale. Risponda prima a questa domanda e poi andiamo invece agli abusi che voi lamentate con l'introduzione del disegno di legge mille proroghe. Prego Artusa. Allora, mi faccia dire per prima cosa che chi ha le licenze di fuori città, diciamo, oltre a questi servizi in città, svolge proprio un certo servizio pubblico, accompagnando i privati piuttosto che negli ospedali. Cioè, che teniamo presente che i taxi ci sono concentrati quasi esclusivamente nelle grandi città, e per tutto quello che è la provincia la mobilità sarebbe un grosso problema se noi non ci fossimo. Per quanto riguarda invece le licenze che sentivano il servizio da Lecce o da Catania, io vorrei ricordare che per accedere alle aree ZTL bisogna segnalarsi, bisogna identificarsi, per cui non si capisce perché il Comune di Roma, e glielo dico da Milano, non possa, come posso dire, imporre una certa limitazione, che ne so, avvisare via fax o controllando in qualsiasi maniera, facendo addirittura degli accertamenti in modo da capire perché delle persone pagano dei contributi a Catania, risultano residenti a Catania, ma siano invitate a farle tutti i giorni in Roma. E questo è correttissimo che lei lo denunci. Allora, chi vive nelle grandi città sa che tra le tante lobby di questo paese che vengono a volte sottaciute o messe in un angolo, quella dei tassisti è formidabile. Si vincono o si perdono le elezioni, addirittura amministrative, con il voto dei tassisti. È così, tanto che il Comune di Roma, se non ricordo male, in consiglio ora ha anche dei rappresentanti di alcuni sindacati dei tassisti. Lei nella sua lettera dice: questo decreto mille proroghe, di cui ora invito lei a parlarne, è uno scotto che dobbiamo pagare al sindaco Alemanno, che sui tassisti ha fatto campagna elettorale. È così, Artusa? Assolutamente confermo, e anche perché, se leggendo il mille proroghe, cioè questi emendamenti, innanzitutto la parola licenza è sempre espressa al singolare. E questo dimostra, a mio avviso, che non è scritto da un noleggiatore, perché un noleggio con conducente, o meglio, non è scritto da un legislatore che tiene presente le dinamiche della categoria, si possono cumulare. Giusto per fare, il primo articolo mi dice che la sede e la rimessa devono essere situati nello stesso comune che ha rilasciato la licenza. Ora io chiedo a lei, ma se io ho più di una licenza di comuni diversi, cosa faccio per la sede? Visto che anche un'altra legge mi dice che non posso avere due sedi all'interno della stessa provincia. Ecco, come nella pubblicità, seguiamo la macchina in due o in tre o in quattro parti, esatto, uguali. Ecco, questo quindi è il primo abuso che voi lamentate. Andiamo agli altri che lei ritiene particolarmente, come dire, stringenti. No, più che stringenti, sono follia pura. Allora, mi si viene a dire che, nell'ordine, devo avvisare preventivamente tutti i comuni nel quale ritengo recarmi. Noi facciamo servizi di disposizione dove il cliente ci comunica volta per volta dove intende andare. Come faccio a prevedere? Ecco, mi faccia riassumere. Teoricamente potrebbero esserci in una media città, prendiamolo una media, lei è lombardo, quindi diciamo Varese, sì. Un autonoleggio con conducente a Varese che i cui clienti potrebbero o vorrebbero andare in chissà quanti comuni, e voi dovreste avvertire tutti i comuni: guardate che noi potremmo un giorno arrivare. Guardate che mi sto recando lì, ecco, quel giorno a quella ora. Ecco. Dopodiché, e quindi, il comune in questione può anche chiedermi un dazio se ha un'area ZTL. Certo, oltretutto bisognerebbe chiedersi come questo può agevolare i rapporti, diciamo così, burocratici. Secondo me li appesantisce non pochi. Ma non c'è poco. Ancora di impedimenti, prego, burocratici. Prego, prego. Burocratici. Mi si viene a dire che i servizi vengono prenotati esclusivamente in rimessa. A parte che la rimessa nasce come figura storica nell'Ottocento, quando c'erano le carrozze, ma questi signori non hanno considerato, qualcuno dovrebbe spiegargli, che hanno inventato i cellulari, i notebook e le mail. Certo. Tornando ad esempio alla Costituzione, vorrei capire perché un idraulico, un elettricista, qualsiasi altro professionista, diciamo di un'azienda individuale, cioè qualcuno che tende a limitare i costi, posso chiamarlo sul cellulare. Ecco, Artusa, parliamo dell'ultimo aspetto che trovo veramente, come dire, pruriginoso, gustoso, da gossip, guardi, è fantastico. Lei dice una cosa ridicola, vale a dire. Quello della privacy. Oh, fantastico. Cosa dovrebbe fare un conducente da noleggio? Allora, devo tenere per 15 giorni sulla mia auto un registro vidimato, anche se non si sa da chi, che comprende nome, cognome, indirizzo e ora in cui l'ho preso e ora di dove l'ho lasciato del cliente che ho portato. Quindi se fosse putacaso, rubato, ci fosse quindi un furto di una macchina, di un autonoleggiatore, lì potrebbe esserci un riassunto di spostamenti di almeno 15 giorni, perché poi magari uno se li tiene anche, di 15 giorni del VIP calciatore che si incontra con la velina, oppure del fedifrago che va con l'amante, giusto? Esattamente così. Oh, fantastico. E le dirò di più: ogni infrazione che io posso commettere mi viene ritirato, sospeso il ruolo per un mese, cioè significa che io per un mese non devo più lavorare. Benissimo, allora io la fermo qui, Artusa, perché intanto la ringrazio del suo splendido intervento e chiedo aiuto a Gaetano Viceconte, amministrativista del Foro di Firenze, nostro esperto ormai da tempo, lo conoscete tutti col suo inconfondibile accento calabro-fiorentino. Prego, Gaetano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, come vede lei la cosa? Ma io credo che questo sia una delle tante sfaccettature del problema della concorrenza nei servizi pubblici, che è uno dei nodi del nostro sistema giuridico. L'esercizio dell'attività di trasporto dei viaggiatori in realtà rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica, proprio ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, e come dice una legge nazionale, una legge del 2003, che disciplina l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, ma che enuncia un principio che si può sicuramente applicare anche al nostro caso, questo tipo di attività può essere limitata esclusivamente per esigenze di carattere sociale oppure per prescrizioni finalizzate alla tutela della concorrenza. Insomma, per sintetizzare, avvocato Viciconte, è facile prevederne l'incostituzionalità se dovesse rimanere così? Io direi che questa norma debba essere, questo complesso di norme che sono state introdotte proprio col decreto mille proroghe, debba essere assoggettata a quello che nel diritto alla concorrenza si chiama test di proporzionalità. Cioè, siccome la concorrenza è un grande valore del nostro ordinamento nazionale e comunitario, occorre che per limitare la concorrenza vi siano esigenze di rilevante valore da proteggere. E nella vicenda di cui ci stiamo occupando, francamente, non è difficile, esattamente, è difficile intravederne. Non sono un giurista, sono un giornalista, ma anche io concordo assolutamente con il suo giudizio. Mi sembra una norma scritta quantomeno frettolosamente, forse, come dire, quel tarlo messo dal nostro radioascoltatore Artusa sul piacere fatto da qualcuno a qualche categoria, secondo me rimane valido. Grazie a Viceconte per il suo intervento, grazie ad Artusa, in regia Giorgio Mattei, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.